Ciao a tutti, carissimi ascoltatori di Radio Big World, e benvenuti in questa nuova puntata dei Monologhi Esteriori. Io sono sempre la vostra aspirante attrice di fiducia, Elisa Elena Carollo. Anche stavolta vi ho portato un monologo per farvi capire che il teatro in realtà non è così distante dalla nostra vita quotidiana come può sembrare. Il motivo principale per cui mi sono messa a fare questo programma è perché volevo condividere la gioia e il divertimento che provo nel fare teatro, perché per me è veramente una cosa bella, una delle mie passioni, anzi, forse la passione più grande. E volevo spiegarvi perché è così bello per me. Forse ci aiuta anche essere in un periodo dell'anno che ha qualcosa in comune con il teatro, il carnevale. Se ci pensate, a carnevale ci si traveste, si fa finta di essere un'altra persona, valgono gli scherzi e quindi si può, come dire, creare un'altra realtà che non è quella vera, quella che vediamo tutti i giorni, e lo sappiamo che non è la verità, però è una convenzione e tutti stiamo al gioco perché è divertente così. A teatro è la stessa cosa. Nessuno pensa veramente che quello che sta accadendo sul palcoscenico sia reale. Però ci divertiamo così. Ci emozioniamo a farlo. Noi attori e anche gli spettatori che ci guardano. È tutta una grande convenzione che secondo me è anche qualcosa di magico, perché alla fine, anche se sappiamo che non è vero, ci crediamo tutti. Non è come il cinema, che è realistico, e quindi ci sono i costumi, le scenografie fatte a regola d'arte, le ambientazioni che sono quelle che veramente dovrebbero essere. A teatro non si può fare tutto questo. C'è un palcoscenico e quel palcoscenico diventa di volta in volta quello di cui abbiamo bisogno per fare la scena. Se siamo su una nave, è ovvio che non potremmo trasportare il teatro in mezzo al mare. Se siamo in un campo fiorito, non possiamo portare l'erba e i fiori sulle assi di legno del palcoscenico. Però comunque attraverso la parola lo diciamo e il pubblico ci crede, perché è su questo accordo che si basa la magia del teatro. A volte negli spettacoli piccoli è anche un problema di mezzi. Non si hanno i soldi, le possibilità di avere delle grandi scenografie. Però anche nelle grandi produzioni si sfrutta questa cosa. Ho visto tantissimi spettacoli in teatri importanti che avevano delle scenografie molto minimaliste. Ad esempio soltanto dei gradini. Eppure il pubblico ci credeva che lì era ambientata una tragedia greca oppure la storia di Macbeth. Quello che ho cercato di descrivervi adesso lo racconta anche Edoardo Di Filippo nell'Arte della Commedia. C'è questo personaggio che si chiama Oreste Campese ed è un capocomico che aspetta di parlare con il sindaco del paese in cui è appena giunto con la sua compagnia teatrale e intanto aspetta e cammina e si mette a riflettere sul palcoscenico, sul fatto che qualsiasi cosa, anche quella piazza, può diventare un palcoscenico. Quindi adesso vi reciterò le sue parole, che sicuramente sanno esprimere questo concetto molto meglio di me. Uno, due, tre, quattro, 5, 6, 7. 7 passi. Poco più di 5 metri. Calcoliamo il doppio per misurare la metà del cortile. 10. Beh, il cortile di un palazzo antico come questo è sempre quadrato. 20 per 20. È un bel cortile. Si potrebbe fare un discreto teatro. 400-500 posti si tirerebbero fuori e il resto palcoscenico. ma nemmeno un palcoscenico vero e proprio, una pedana sarebbe sufficiente. In fondo il capannone non aveva che 300 posti a sedere. E il palcoscenico che era? Un boccascena di 6 metri, questo è tutto. 6 metri per 4 di profondità. Ho recitato quello che ho voluto su quei pochi metri quadrati. Tutto Shakespeare e tutto Molière. 2000 anni di teatro si possono recitare su pochi metri quadrati di tavole. Perché? Contano qualche cosa gli scenari? Quali scenari ho mai avuto io? Pochi stracci dipinti da me stesso, alla buona, con 4 pennellate. Il torrione del castello, la sala del trono, la foresta, tutto lì. E il sipario? Una tendaccia che non scorreva mai liberamente. Si imbrogliavano le corde, si impicciavano gli anelli. E il pubblico non diceva niente. Pubblico rispettabile, perdonate l'incidente. E la chiusura della tenda la completavo io, vestito da Otello, da servo, da principe di Danimarca. Che conta. Una sera la chiusura del sipario l'ha dovuta completare mia figlia, vestita da Ofelia. Mio figlio Gualtiero, nei panni di Romeo, non dovette inchiodare la ringhiera del balcone di Giulietta, che si era schiodata. Pubblico rispettabile, 2 minuti di pazienza, se no la povera Giulietta la portiamo al pronto soccorso. Una risata, un applauso, 4 colpi di martello e l'attore riprende la scena dal punto in cui l'ha lasciata. Se gli riesce, e questo è affare suo, ristabilisce tra sé e il pubblico l'incantesimo del teatro. Gli attori della mia generazione li creavano apposta gli incidenti a teatro, per dare al pubblico la sensazione dell'imprevisto. È proprio questo imprevisto che eleva il teatro a forma d'arte sublime, singolare, unica. Qualunque sforzo tecnico e finanziario che si può compiere per rendere il più possibile realistica una messa in scena potrà incuriosire il pubblico, ma lo lascerà sempre scontento di non aver potuto usare l'immaginazione. Le strade vere, le piazze vere, gli alberi, i saloni autentici, l'ampiezza di un panorama di montagna, di campagna, di mare. Tutto questo lo spettatore lo pretende dal cinematografo. Ma a teatro, la fantasia del pubblico, sollecitata dalla parola del poeta, se lo crea come vuole e come le vede lui le scene in cui si svolge una determinata azione. L'esperienza tecnica e artistica di uno scenografo, anche se è geniale, non potrà mai dare tante versioni figurative per quante se ne creano gli spettatori, ognuno per conto proprio e in conformità dei propri gusti, della propria sensibilità e soprattutto dello stato d'animo che attraversa in quel momento. Quante volte, attaccandomi i baffi di Macbeth, io lo faccio coi baffi, Macbeth, me li sono attaccati intenzionalmente appena un poco storti, perché a teatro la suprema verità è stata e sarà sempre la suprema finzione. Insomma, credo che da questo bel monologo abbiate capito che cosa si intende. Questa magia dell'imperfezione che in realtà crea la perfezione più grande perché permette alla fantasia del pubblico di intervenire. Io non avrei saputo spiegarlo meglio, sicuramente. Spero che ci penserete la prossima volta che andrete a teatro. Perché ci andrete, vero? E anche questo lo scopo del mio programma, farvi capire che il teatro non è una cosa per vecchi. Ci sono spettacoli divertenti, emozionanti, tutto quello che volete, basta scegliere quello giusto, accomodarsi sulla poltroncina e lasciare andare l'immaginazione. Spero che questa puntata vi sia sembrata interessante e che vogliate seguirmi anche la settimana prossima. Parleremo di una ricorrenza che a me non sta tanto simpatica, però va di moda, quindi lo faccio per voi. Ho trovato anche qualcosa da recitare per San Valentino. Quindi vi aspetto la settimana prossima con tanto amore, forse. Ci risentiamo sempre qui su Radio Big World. Ciao a tutti!